Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri, o lo trovate con un qualunque motore di ricerca. Di cosa parlo? Beh, di illegalità e di criminalità organizzata, lo sapete, le mie grandi passioni. Allora, oggi affronteremo un tema molto interessante perché coinvolge una platea enorme, quella degli automobilisti. Automobilisti che sempre più sono alle prese con questi navigatori. Allora, io do il buongiorno alla nostra radioascoltatrice di Monza, Silvia Colombo. Buongiorno Colombo. Buongiorno a lei. E poi do il buongiorno a Raffaele Caracciolo, che è l'esperto in materia di garanzia dei beni per Adiconsum Consumatori. Buongiorno Caracciolo. Buongiorno a voi, grazie di averci coinvolto. E poi sentirete perché Caracciolo ci tornerà utile. Ma intanto partiamo con la storia di Silvia Colombo, che un giorno decide di acquistare un TomTom. Dico bene, Colombo? Esattamente. Le spiego un po' il caso brevemente. Certo. Ho acquistato il TomTom, il navigatore portatile per auto, a marzo del 2009. Dopo pochi mesi la ventosa non rimaneva attaccato, cioè non teneva la presa. Non me lo dica che succede la stessa cosa anche a me. Cade così. Esatto. Quando uno meno se l'aspetta. Assolutamente. Dopodiché, ho chiamato il negozio, l'ho acquistato per sapere come sostituire eventualmente, perché chiaramente è ancora in garanzia. In garanzia, certo. Loro mi dicono di contattare l'assistenza della TomTom, quindi vado sul sito della TomTom e cerco il numero dell'assistenza. Mi stupisco che non ci sia un numero verde, nel senso, comunque sì. Vabbè, io contatto in ogni modo l'operatore, che gentilmente mi invia una mail nella quale mi invita chiaramente a spedire lo scontrino, la fotocopia dello scontrino, per avere la ricevuta, per ricevere poi la ventosa sostitutiva. Benissimo, ecco, e le forniscono un numero di fax, che è un numero internazionale. Loro stessi specificano che è un fax internazionale, al che a me sembra un po' strano, cioè perlomeno un dubbio mi è venuto, se è opportuno cioè mandare un fax a un numero internazionale per un prodotto comunque acquistato in Italia. In Italia, assolutamente. Loro... Ecco, sì. Io devo dire che noi abbiamo inseguito per Mari e per Monti TomTom e abbiamo seguito tutte le strade, ma evidentemente senza TomTom ci siamo persi nel raggiungere TomTom. Però alla fine ce l'abbiamo fatta e sentite un po' che risposta ci hanno dato. Innanzitutto ci scusiamo per non poter partecipare direttamente alla trasmissione, ma purtroppo il responsabile per l'Italia è indisponibile all'estero. Come TomTom prendiamo molto seriamente l'impegno nei confronti del cliente e la fase di supporto post vendita, per il quale abbiamo vinto recentemente anche un premio per la qualità e consideriamo una delle nostre priorità in assoluto il supporto al cliente in tutte le fasi dell'acquisto. Abbiamo un team di supporto molto preparato, basato nella nostra sede centrale di Amsterdam, dove riceve continuo training, aggiornamento e monitoraggio della qualità del servizio, raggiungibile attraverso un numero telefonico fisso italiano, quindi con nessun costo aggiuntivo per il cliente. Siamo davvero molto spiacenti per l'inconveniente occorso alla vostra ascoltatrice e se ha riscontrato che il nostro servizio assistenza non sia stato in linea con i nostri standard. Crediamo che il problema sia sorto anche a causa di un malinteso, in quanto nel caso preso in esame c'è effettivamente la possibilità di inviare il documento richiesto in maniera gratuita, semplicemente allegando il documento e inviandolo online al nostro supporto clienti tramite il nostro sito. In ogni caso, ci impegniamo a contattare direttamente questa cliente a breve per risolvere quanto prima il disguido. Nel frattempo, ringraziamo ancora molto per l'opportunità e salutiamo cordialmente. TomTom Italia. Beh, noi avremmo voluto che questa opportunità fosse colta fino in fondo e quindi i responsabili si fossero fatti vivi con la loro viva voce nella nostra trasmissione, però è già un enorme sollievo per me sapere che i responsabili sono indisponibili, meno male che non sono indisposti, perché lì sicuramente mi sarei preoccupato un po' di più. Caro TomTom, noi siamo sempre qui a disposizione. Mi dispiace poi non avere un nome e un cognome da ringraziare e da chiamare. Caro TomTom, va bene. Allora, Caracciolo, insomma, la questione è abbastanza anomala. Ci dia un po' lei di dritte. No, non è anomala. anomala, è molto corrente. Nella lettera molto accorta scritta da Tom, c'è tutta la differenza tra insegnare a pescare o fornire un pesce. Nel caso specifico, il baco sta nel rapporto tra la consumatrice e il punto vendita. Quindi la imponente struttura di assistenza post vendita TomTom, magnificata nel testo che ci avete letto, è al servizio del punto vendita, non del consumatore. Certo. Quindi la signora aveva tutto il diritto di lasciare la ventosa o il particolare guasto nelle mani del punto vendita, il quale si sarebbe dovuto attrezzare, dopo aver verificato la validità della garanzia attestata dall'esistenza dello scontrino e dalla data del medesimo, dopodiché la transazione con la filiera dell'assistenza aspettava a lui e non alla consumatrice. Ecco, questo qui però mi sa che accade abbastanza spesso, Caracciolo, vero? Che è ancora la norma, purtroppo. Quindi vale a dire, la norma è che il venditore al dettaglio se ne lava un po' le mani dicendo: ma io c'entro poco o nulla, vedi di contattare direttamente la casa produttrice. E così facendo incorre in due problemi: uno, di essere condannato dal giudice di pace a farsi carico del disagio causato al consumatore; due, di essere deferito all'antitrust per comportamento sleale. Ecco, questo qui è molto importante. Attenzione, la Diconsum ci sta dicendo una cosa basilare, fondamentale, perché noi purtroppo i nostri diritti non li conosciamo mai abbastanza. Grazie anche all'accorto groviglio di normative, leggi, discipline e regole che sono costruite ad arte per imbrigliare il consumatore. Allora, caro Caracciolo, anche se nella fattispecie la norma è di una chiarezza estrema. Esatto. Siamo di fronte a una pervicace volontà di non applicarle da parte della filiera, e il consumatore, spesso intimorito, spesso poco consapevole, anziché fare la cosa semplice, cioè dice: questo è l'oggetto, sistemamelo, punto, per questo è un diritto sancito dalla legge, finisce per cadere in questo meccanismo infernale di contatto con centri di assistenza tecnica, spesso lontani, spesso sconosciuti, spesso succede anche che si perde proprio traccia fisica dell'oggetto mandato in riparazione di cui si aspetta la sostituzione. Quindi in realtà il codice sancisce il diritto del consumatore alla consumer education, ma nessuno, salvo noi, cerca di farlo. Esattamente. Io vorrei chiedere alla nostra radioascoltatrice Colombo se lei è andata, ma lo ha già detto, presso il punto vendita e se ha provato a far capire al negoziante che in realtà si sarebbe dovuto fare lui carico della sostituzione della ventosa. Sì, io avevo chiamato e loro mi avevano detto di rivolgermi al sito, praticamente, al contattare direttamente la TomTom. Esatto, quindi si sono scaricati da ogni responsabilità. Mi domando, Colombo, adesso però, lei che tipo di passi intende intraprendere? Poi chiediamo anche ovviamente il consiglio di Caracciolo, ma lei come si comporterà ora? Con qualche difficoltà, nel senso che da qualche fax non mi è partito, ma poi di fatto sono riuscita a mandare il fax proprio l'altro ieri, e quindi niente, adesso ho mandato il fax e quindi sono in all'estero e sono in attesa che mi arrivi la ventosa nuova. Quindi ovviamente lei però nel frattempo, nonostante TomTom Italia fosse stata avvisata e nonostante TomTom Italia abbia rilasciato le dichiarazioni che abbiamo sentito, tra le quali quelle di contattarla, lei non è stata contattata da TomTom Italia? No, sono stata contattata dalla vostra redazione che mi spiegava un attimino la vicenda come proseguiva. Certamente, ecco. Certamente. Allora, Caracciolo, a questo punto la procedura, mi pare di capire, che ha seguito la nostra radioascoltatrice, non è corretta, nel senso che non sarebbe questa la norma. Lei ha fatto il passo che le hanno consigliato, ma lei che cosa dovrebbe fare per tutelarsi? Perché questa, a questo punto, diventa una questione di principio, una ventosa, viva Dio, però insomma difendiamo i nostri diritti. La procedura è molto semplice: la signora deve mettere in mora il venditore con la raccomandata con ricevuta di ritorno, richiedendo la sostituzione del pezzo difettoso e affermando che si riserva di quantificare l'eccessivo disagio subito in ragione del modo con cui il suo reclamo è stato trattato. Quindi a questo punto si tutela anche? si tutela in maniera di, una volta ripegnata magari la ventosa in qualche modo, conserva il diritto di rivendicare, dico quantificandolo, il disagio, certo, che lei ha subito, in quanto la legge dice con estrema chiarezza che il difetto deve essere eliminato senza spese per il consumatore e in modo tale da non arrecare eccessivo, benissimo, disagio. Allora, a questo punto nel caso specifico c'è il disagio e ci sono le spese. Benissimo. Allora, dal fax internazionale al... Certo, certo. Allora io ringrazio Caracciolo per i suoi consigli, ringrazio la nostra radioascoltatrice, ricordando a tutti in conclusione che nel momento in cui si acquistano dei prodotti, responsabili diretti e immediati per ogni tipo di reclamo sono i nostri venditori, sono i nostri negozi di fiducia, i quali sono il tramite nei confronti delle aziende produttrici. Quindi è a loro che in prima battuta bisogna rivolgersi. Grazie a Caracciolo, grazie alla nostra radioascoltatrice Silvia Colombo da Monza, a Carmelo Lauricella in regia e Elisabetta Fusconi in studio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.